Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ho letto come voi che in Nuova Zelanda 400 balene si sono spiaggiate, forse perché il capobranco ha perso l'orientamento, e ne hanno salvato una parte con una catena umana che ha portato dell'acqua in attesa di una buona marea che le riportasse al mare. Forse dobbiamo scegliere chi siamo, se ci tocca la parte delle balene o di quelli che riempiono i secchi. Per il poco che possa contare, io direi che è meglio la seconda. E allora, quelli del PD sono balene che si spiaggiano sulle spiagge lì, arrancano, oppure sono i volontari che vanno a salvarle? Questa era un po' la metafora di Cuperlo della minoranza PD oggi alla direzione del Partito Democratico. Dopodiché è stato votato l'ordine del giorno e passata la mozione di Renzi, quindi congresso subito. Adesso dobbiamo vedere dai punti di vista se questo significa essere da parte del PD balena oppure salvatore. Ne parleremo ampiamente oggi per riniziare la settimana di Effetto Notte. Ne parleremo con la nostra commentatrice politica e poi ci occuperemo di molte altre cose, naturalmente, per esempio di questa diga al collasso che c'è in California, che rischia il collasso. Sono state già evacuate 200.000 persone. È una misura precauzionale per il momento, però ci sono state delle piogge veramente inusuali negli ultimi giorni, e quindi questa diga, che pare che sia degli anni 50, anche precedente, forse la più grande degli Stati Uniti, è a serio rischio appunto di collasso. Ci collegheremo poi direttamente con gli Stati Uniti e parleremo anche del più prestigioso premio fotografico che quest'anno del fotogiornalismo è stato assegnato a quel fotografo che ha immortalato le immagini dell'ambasciatore russo, vi ricordate, lo scorso dicembre, ucciso in Turchia durante l'inaugurazione di una mostra. Questo e molte altre cose, come sempre, qui Effetto Notte. Per la vostra interazione c'è la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Lo dico piano, 349-238-6666, ma prima di tutto, come sempre, riassunto della giornata. La direzione del PD, la maggioranza approva l'ordine del giorno, congresso subito, a favore 107, 12 contrari, 5 gli astenuti, passa la linea Renzi, minoranza insoddisfatta. Vertice del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, si decide sull'assessore Berdini, oggi la sindaca Raggi aveva detto la pazienza un limite lavori anziché fare interviste. Bruxelles sull'Italia, nessun ultimatum, ma la crescita è la più lenta in Europa. Stati Uniti, stato di emergenza in California, la più grande diga americana a rischio collasso. Francia, valanga sui sciatori in Alta Savoia, 4 i morti, ma la prefettura pensa che ci possano essere altre vittime. Siria, lo scempio a Palmira, in un video Mosca mostra nuovi danni al patrimonio archeologico dell'antica città. Genova, un 16enne si uccide davanti alla madre dopo aver ammesso con gli agenti che perquisivano l'abitazione di avere 10 grammi di hashish. Addio a Massimo Fagioli, lo psichiatra, guru dell'analisi collettiva, si è spento a 85 anni. Fotografia, è andato al fotografo Buran Obsilici il premio World Press Photo 2017 per l'immagine dell'omicidio dell'ambasciatore russo in Turchia. E per il calcio, in campo per la Serie A, Lazio-Milan. Partiamo quindi dalla direzione del Partito Democratico. La maggioranza ha approvato l'ordine del giorno, quella che dice praticamente congresso subito, a favore hanno votato in 107, 12 contrari, 5 gli astenuti, passa quindi la linea di Renzi, ma la minoranza si dice scontenta, insoddisfatta, anche se Renzi aveva provato a ricucire con la minoranza aprendo il congresso e chiudendo eventuali scissioni. Matteo Renzi apre di fatto la stagione congressuale. L'ex premier non pronuncia ufficialmente la parola dimissioni, queste arriveranno probabilmente nel fine settimana all'Assemblea Nazionale, ma conferma: si chiude un ciclo che ho iniziato nel 2013, ho preso un PD che era al 25% e l'ho portato al 40%. Perché chiediamo il congresso? Perché io non sarò mai il custode di un caminetto, io non sarò mai il garante di un patto tra correnti, io per carattere scelgo sempre il mare aperto della sfida e non la palude di equilibri interni per i quali non sono adatto. La strada delle dimissioni dunque per poter anticipare il congresso, che si terrà, spiega Renzi, con le stesse regole dell'ultima volta. Quanto al voto non c'è urgenza, spiega l'ex presidente del Consiglio, non sarò io a decidere, poi la stoccata alla minoranza interna. Se scissione deve essere, ma io spero di no, che sia una scissione senza alibi. certo non con l'alibi del calendario. Un messaggio da Renzi anche a Gentiloni e Padoan, presenti ad ascoltarlo. Il tema è quello della manovra chiesta da Bruxelles. Non aumentare le tasse, dice, è un principio di serietà. Quindi da Renzi la difesa dei voucher, evitare il referendum non fa male. Tante quindi le anime della minoranza interna. Per Bersani la priorità è chiarire quando si andrà al voto. Possiamo lasciare, dice, ma forse a giugno, a settembre. Ma dico ragazzi, ma non possiamo fare una cosa così. Da Emiliano infine la conferma della sua candidatura alla segreteria. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi, come vi dicevo, tra poco ci torniamo su questo, sulla direzione del PD, su cosa è emerso da questa riunione e effettivamente come continuano i rapporti tra maggioranza e minoranza, se si va al voto o non si va al voto. Intanto vertice oggi del Movimento 5 Stelle in Campidoglio per decidere le sorti dell'assessore all'urbanistica Berdini, dopo, sapete, le pesanti critiche in un colloquio che aveva avuto Berdini con un giornalista della Stampa. Ne parliamo con la nostra Teresa Trillò. Sì, ciao Roberta. Ciao Teresa. Buonasera. È finita? È ancora in corso la riunione? È finita da pochissimi minuti la riunione in Campidoglio. E cosa hanno deciso? Cosa ha deciso la maggioranza? Ha deciso che il caso Berdini si chiuderà dopo la verifica già avviata, tra l'altro, sull'operato dell'assessore. Questa appunto è la decisione che è emersa dalla riunione di maggioranza del Movimento 5 Stelle. Bisognerà così attendere ancora qualche giorno, ha spiegato anche il vice sindaco Luca Bergamo lasciando il Campidoglio, per sapere se l'assessore all'urbanistica rimarrà o no in sella. Quindi per il momento non è presa ancora nessuna decisione, come detto devono fare ancora delle valutazioni. Questa riserva della sindaca Raggi ancora non è sciolta. Grazie, allora aspetteremo i prossimi giorni. Grazie Teresa Trillò da Roma in diretta. Ciao Teresa, adesso le previsioni economiche presentate per l'Italia dalla Commissione Europea. It is absolutely wrong to talk about any thought of ultimatum. È assolutamente sbagliato parlare di un ultimatum all'Italia. Il commissario europeo agli affari economici Moscovici è netto nel smentire le ricostruzioni di stampa secondo cui l'UE avrebbe messo le strette con un out-out il nostro paese sui conti pubblici. Con l'Italia c'è una discussione positiva e costruttiva, in particolare con il ministro dell'economia Padoan, ha sottolineato Moscovici nella conferenza stampa a Bruxelles in cui ha presentato le previsioni economiche invernali UE. A chi gli chiedeva se è stato scongiurato il pericolo di apertura di una procedura contro l'Italia per debito eccessivo, il commissario ha spiegato che la preparazione della relazione sul debito dell'Italia in corso e in questo contesto si terrà conto di tutti i fattori che possono spiegare perché il Paese non rispetta la regola sul debito. La Commissione europea ha confermato le previsioni di crescita dell'Italia rispetto alle stime di novembre, con un aumento del prodotto interno lordo dello 0,9% nel 2017 e dell'1,1% nel 2018. Sono le stime più basse di tutta l'Unione europea. L'incertezza politica e il risanamento lento del settore bancario rappresentano un rischio per la crescita economica, scrive la Commissione, anche se, specifica, non si può escludere un impulso più forte del previsto proveniente dalla domanda esterna. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E la Corte dei Conti chiede che l'Unione Europea tenga conto delle spese extra dovute al terremoto. Monito della magistratura contabile sulle spese legate al terremoto, la flessibilità deve riguardare anche le spese per i piani antisismici. L'Europa ne tenga conto in sede di esame dei bilanci degli Stati membri, così il presidente Arturo Martucci di Scarfizzi. La prevenzione non appare del tutto slegata dalla ricostruzione, poiché non si tratta di cautelarsi contro eventi solo possibili, bensì di programmare una protezione contro effetti drammatici di eventi sismici che presentano purtroppo caratteri di potenziale continuità. Il presidente della Corte dei Conti sottolinea poi come ci siano nell'economia italiana segnali di ripresa, ma questa resta fragile anche per i vincoli di bilancio europei. All'attenzione dei magistrati contabili anche il fenomeno della corruzione che continua a dilagare nel nostro paese ed è particolarmente consistente negli appalti pubblici, ma non è sempre la corruzione a determinare l'inefficienza, è spesso vero il contrario, spiega il procuratore generale Carlo Galtieri. In realtà è l'inefficienza a creare ampie zone oscure nelle quali più facilmente si possono inserire e nascondere i conflitti di interesse e la corruzione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E adesso spostiamoci all'estero, negli Stati Uniti, dove c'è stato di emergenza in tre contee della California a causa dell'allarme nella diga più alta degli Stati Uniti ad Oroville per il possibile collasso dello sfioratore di emergenza che potrebbe determinare un'inondazione della valle sottostante. Il problema è forse causato da una crepa provocata dalla corrosione del tempo. Sinora sono state evacuate circa 200.000 persone e per questo poi ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti per capire effettivamente la misura della gravità della situazione. Grave la situazione in Francia, invece, dove una valanga ha travolto un gruppo di sciatori avventuratisi fuori pista a Tignes, stazione sciistica della Savoia. Le vittime accertate sono 4, intanto sono 5 i dispersi. Ma quali sono le precauzioni da osservare in questi casi? Il nostro Adriano Palazzolo lo ha chiesto a Giancarlo Fenoglio, che è direttore della Scuola Regionale Tecnici del Piemonte Soccorso Alpino. Prima di tutto, queste valanghe redatte dall'ARPA è fondamentale, perché dà un'indicazione generale della situazione di pericolo del manto nevoso. Poi sicuramente la scelta del percorso, informarsi sul luogo con dalle guide alpine, dalla gente che vive quella valle, questo penso siano le cose fondamentali. Chiaro che poi bisogna avere il materiale di autosoccorso sempre nello zaino. E adesso in Siria, senza fine lo scempio dell'antica città siriana di Palmira, di nuovo nelle mani dell'ISIS da dicembre, 9 mesi dopo che Damasco ne aveva ripreso il controllo. I terroristi avrebbero fatto saltare in aria il palcoscenico, il proscenio del teatro romano e distrutto il tetrapilo a 16 colonne del 270 d.C. Le immagini in un filmato girato da un drone russo, secondo Mosca, i jihadisti si starebbero preparando con un massiccio impiego di esplosivi ad arrecare il massimo danno possibile alle architetture rimaste. E adesso di nuovo in Italia con la cronaca. Tragedia nel primo pomeriggio a Lavagna, in provincia di Genova, dove un ragazzo di 16 anni si è gettato dal balcone di casa mentre nell'abitazione era in corso una perquisizione della Guardia di Finanza. In quel momento nell'abitazione era presente sua madre. Secondo quanto appreso, il 16enne incensurato si è gettato dal balcone di casa dopo aver ammesso alla Guardia di Finanza di possedere 10 grammi di hashish. E un'altra tragedia che riguarda un'altra minorenne nel Milanese, una ragazza di 17 anni, mentre era a bordo questa sera dell'autovettura condotta dal padre, si è slacciata la cintura di sicurezza, ha aperto lo sportello e si è lanciata in strada mentre sullo stesso senso di marcia transitava un auto articolato che l'ha travolta e uccisa sulla Cassanese a Segrate, in provincia di Milano. L'hanno riferito i carabinieri aggiungendo che il camion non si è fermato. Farmaci, l'azienda Bayer ha deciso il ritiro cautelativo e volontario di alcuni lotti dell'aspirina 500 mg granulato da 10 e da 20 bustine e di Alka Effer 20 compresse effervescenti. Il ritiro, si legge sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, non è collegato a problematiche di sicurezza o di efficacia ed è stato emanato a seguito di segnalazioni per possibile presenza di agglomerati e o di colore anomalo. Ed è morto questa mattina a Roma Massimo Fagioli, psichiatra dell'analisi collettiva, aveva 85 anni, era nato a Monte Gilberto nel 1931 in provincia di Ascoli Piceno. Fagioli, autore di oltre 23 libri, ha avuto tra l'altro un lungo sodalizio poi interrotto con il regista Marco Bellocchio. E siamo a World Press Photo, è andato al fotografo dell'Associated Press Buran Osbilici per l'immagine dell'omicidio dell'ambasciatore russo in Turchia Andrei Karlov, vi ricordate, il 19 dicembre scorso. Osbilici, che si trovava all'inaugurazione di una mostra cui era intervenuto il diplomatico, è riuscito a realizzare l'intera sequenza dell'assassino, in particolare lo scatto premiato è quello che ritrae il killer in piedi con la pistola nella mano destra puntata a terra e la sinistra alzata a indicare il cielo e vicino a lui il corpo del povero diplomatico russo. Poi ne parleremo con un famoso fotografo. Ora una notizia che riguarda il clima: le attività umane stanno rendendo il cambiamento climatico 170 volte più veloce rispetto alle forze naturali. A dirlo è uno studio pubblicato sulla rivista The Anthropocene Review, in cui un team internazionale di ricercatori illustra la messa a punto della prima equazione matematica in grado di descrivere l'impatto dell'uomo sul mondo. Per chiudere abbiamo la partita in campo di Serie A Lazio-Milan, vedo che sono per il momento 0-0, quindi pareggio, nulla di particolare al momento per quello che posso dire. Direi che ci fermiamo qui, aggiorniamo invece chi sta viaggiando, chi si sta muovendo. I vostri messaggi intanto sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio giorno e notte, e il numero per SMS e WhatsApp che è il 349-238-6666. Dice per esempio Fucsia dal Veneto: il signor Cooperlo lasci in pace le balene, piuttosto prenderei come paragone i porci e le scrofe di Orwellana memoria. È molto calzante ai nostri politici, quindi ne fa una questione di potere e di controllo l'ascoltatore. Mentre c'è un altro messaggio, questo è Francesco da Udine che mi ringrazia, mi augura buon lavoro, mi augura di guarire presto dalla bronchite, come sentite insomma ormai da mesi siamo così. A tra poco. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi. Vedo molta partecipazione intorno alla direzione del PD. Per esempio Angela dice: purtroppo Renzi è tornato a rompere, non credere che i papamolle del PD riescano a liberarsene, saremo noi italiani a fargli abbassare la cresta, a mandarlo a casa. Poi Lidia dice: la minoranza PD sarà contenta, invece quindi di parere contrario, sarà contenta la minoranza PD solo quando al governo andranno i 5 Stelle o Salvini. E poi molti altri messaggi, dice questo ascoltatore Carlo: le contraddizioni, le correnti, il riposizionamento e la disfatta del 4 dicembre, cioè di quando è stato il referendum, non mi hanno impedito di assistere al precongresso del PD. Aspetto con fiducia che la setta dei Robespierre 2.0 si mostri in un palcoscenico simile, lasciandoci almeno gli oblò. Insomma, questi i primi commenti per quanto riguarda quello che sarà il primo tema tra poco che affronterò con l'ospite. Intanto però, se qualcuno non ha acceso puntualmente le 21, vi ricordo comunque le notizie più importanti. Sì, dalla direzione del PD a Renzi, il congresso subito, c'è il no di Orlando, ministro della giustizia, scontro con Bersani e intanto Emiliano si candida a segretario. L'Unione Europea rivede il PIL dell'Italia a rialzo, ma di poco, dice non ci saranno ultimatum, però purtroppo la nostra crescita è estremamente lenta. L'ira della sindaca Raggi sull'assessore Berdini, la mia pazienza ha un limite, ha detto oggi, il destino dell'assessore è affidato a quello che sarà la valutazione del suo operato. C'è stato un vertice che si è concluso poco fa. E poi negli Stati Uniti la grande diga che fa paura in California, 200.000 evacuati per l'impianto di Orville che rischia il collasso. Poi ne parleremo. Il dolore del Papa per i preti pedofili è un orrore, dai cardinali pieno appoggio intanto alle riforme di Bergoglio. E poi WordPress Photo, il premio più prestigioso per il fotogiornalismo, va allo scatto dell'omicidio della ambasciatore russo Karlov in Turchia e quindi al fotografo Buran Osbilici. Anche di questo ci occuperemo. Il Napoli alla febbre Real, ci sarà contro il Real la partita mercoledì, ma intanto c'è una partita in corso di Serie A Lazio-Milan che procede 0-0. Ho letto come voi che in Nuova Zelanda 400 balene si sono spiaggiate, forse perché il capobranco ha perso l'orientamento, e ne hanno salvato una parte con una catena umana che ha portato dell'acqua in attesa di una buona marea che le riportasse al mare. Forse dobbiamo scegliere chi siamo, se ci tocca la parte delle balene o di quelli che riempiono i secchi. Per il poco che possa contare, io direi che è meglio la seconda. Adesso ce lo faremo raccontare, insomma, se si tratta a questo punto, dopo questa direzione PD, di balene oppure di salvatori con i secchi. In ogni caso, appunto, oggi c'è stata la direzione del Partito Democratico, tanto attesa da tempo, dal 4 dicembre, quando c'è stata la sconfitta al referendum di Renzi. La direzione del PD è l'organo che dà esecuzione praticamente a quello che deve essere l'indirizzo del partito. Ogni volta si dice è il momento della resa dei conti. C'è stata effettivamente resa dei conti in questo senso. Intanto Renzi comunque ha detto che si è chiuso un ciclo dal 4 dicembre, che però ha rivendicato che lui ha trovato un PD al 25% e nell'unica consultazione politica, quella delle europee, dice l'abbiamo portato al 40,8%. Non ha parlato esplicitamente di dimissioni, ma in ogni caso diciamo che il dado è tratto, perché ha incassato il voto della maggioranza della direzione sull'ordine del giorno di oggi, che era quello di andare al congresso subito. Sentiamo allora Renzi in questo passaggio della chiusura del ciclo. Si chiude dunque un ciclo alla guida del Partito Democratico. Io sono segretario del PD dal 15 dicembre del 2013, giusto per fare 3 o 4 punti di verifica, di bilancio, noi scout siamo abituati così. Ho preso un PD che aveva il 25% di voti e nell'unica consultazione politica nazionale lo abbiamo portato al 40,8. Allora, saluto la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara, buonasera. Buonasera. Quindi, secondo te, è stata più, diciamo, una discussione ombelicale, intorno proprio a un bellico, spesso di cose che chi è fuori capisce poco, poco interessato? Nel senso, cosa è uscito di concreto? A parte, di nuovo, mi pare, una spaccatura tra maggioranza e minoranza, perché Renzi l'ha avuta vinta in questo senso di andare al congresso il prima possibile, però invece la minoranza aveva votato contro perché diceva prima dateci la garanzia che diamo fiducia al governo Gentiloni fino alla fine della legislatura, invece dice in questo senso no, perché allora si tratta di congresso lampo e dunque di voto lampo? Ecco appunto, il punto è sempre lo stesso, cioè la data delle elezioni, la legge elettorale, siamo sempre fermi lì, dal 4 dicembre che siamo fermi lì. E chiaramente il Partito Democratico, essendo il partito di maggioranza relativa, il principale azionista del governo attuale, ha le carte, detta le carte. Allora, le posizioni in sostanza sono due. La prima è quella di Renzi, che è sempre un po' la stessa, cioè Renzi vuole andare a votare il prima possibile. Vuole, si era detto, la stessa minoranza in precedenza aveva chiesto il congresso, perché diceva appunto non si può andare a votare senza che ci sia stata una fase congressuale in cui veniva fuori la nuova proposta del PD e la nuova leadership. Renzi dice benissimo, facciamo il congresso e facciamolo subito. A questo punto però la minoranza dice no, non subito, perché comunque bisogna, noi abbiamo anzitutto davanti l'interesse del paese, e l'interesse del paese è che il governo vada avanti fino alla fine della legislatura, perché qual è il retropensiero di Bersani e della minoranza? Ovvero che Renzi, una volta uscito vittorioso dal congresso del PD, possa staccare la spina a Gentiloni e portare il paese quindi al voto. Già. Questo è in sostanza lo scontro poi su quando si va, perché sennò non si capisce, dice ma perché si accapigliano sulla data? Il motivo per cui si accapigliano è sempre lo stesso, ovvero una parte del PD, per ora maggioritaria, quella renziana, che vuole tornare alle urne il più presto possibile, e un'altra parte che invece vorrebbe posticipare questa decisione perché ritiene che in questo momento portare il paese alle urne sarebbe nel bene del paese. Senti Barbara, quindi è praticamente diciamo un Paolo stai sereno rivolto a Gentiloni come fu a Enrico Letta, Enrico stai sereno, nel senso che no, anche perché cioè io non la vedo in questo modo, anche perché i rapporti sono diversi e perché anche i ministri all'interno del governo, come dire, sono ministri che sono stati ministri di Renzi, quindi è inevitabile che una decisione del genere passi per una decisione più collegiale, però non c'è dubbio che Renzi da parte sua ha subito in questi mesi, da dopo la sconfitta al referendum, l'attacco da parte della minoranza e quindi vuole andare alla conta, questo mi sembra il risultato evidente. Poi sembra scontata la vittoria all'assemblea che si dovrebbe tenere appunto del Partito Democratico entro questo weekend, in cui si deciderà di fatto la data del congresso, cioè si avvierà la procedura congressuale. Senti Barbara, sentirei questo passaggio di Renzi sulle primarie, chi perde non lasci, chi vince non scappi col pallone eccetera, sentiamolo. Scegliamo qual è il campo di gioco e giochiamo con rispetto, in modo aperto, allegro, trasparente, vinca chi ha le idee migliori e chi si mette in gioco e non vince, il giorno dopo dia una mano a chi ha vinto, non scappi col pallone come è accaduto, non lasci chi vince le primarie da solo. E poi Renzi che dice attenzione perché fuori di qui, se voi guardate a qualcos'altro, ci sono Trump e Le Pen. A chi? In questo partito vuole giocarsi la carta della contendibilità della leadership, io dico porte aperte, solo che il mondo fuori da qui a Trump e la Le Pen. Però sappiamo che diciamo come possibili concorrenti di Renzi alla segreteria del partito ci sono sia Enrico Rossi, che è il presidente della regione Toscana, sia Emiliano, che è il presidente della regione Puglia. Sentiamo allora la candidatura ferma di Emiliano. Stasera io ti parlo delle ragioni che ti hanno indotto a dire che sarò tra i candidati alla segreteria. È una cosa che a questo punto sarà necessaria, io sento di fare. Perché? Perché quando ti ho sostenuto nell'ultimo congresso, e l'ho fatto con tutto il cuore, l'energia, anche la commozione, me ne devi dare atto, stai rifacendo la stessa faccia che facevi mentre parlava Bersani. Ti prego, fammi le facce che fai con gli altri, ti prego. Insomma, Barbara, ti leggo velocemente alcuni messaggi delle ascoltatrici e degli ascoltatori, molto partecipi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Simone scrive: veramente il partito era già spiaggiato, a proposito della metafora delle balene di Cuperlo. Renzi ha tentato di resuscitarlo portandolo al 40%, ma poi ha inanellato una lunga serie di errori e un leader non può permetterselo. Ora sono nel guado. Enrico: devono dividersi, una sinistra con tutto il vecchiume stile Bersani e una centrista invece con Renzi. Andrea: quando Gianni Cooper lo commenta, i topi abbandonano la nave. Andrea scrive, un altro Andrea invece, dovrebbero prendere la strada sbagliata e lasciare agli altri la strada più giusta. Chiara: darsi una mossa, dovrebbero, il paese ha problemi seri e questi si stanno guardando i rispettivi ombelichi pagati da noi a 10.000 euro al mese. Cosa commenti, Barbara? Tra l'altro Renzi avrebbe detto al congresso: voglio che in modo sincero diciate che cosa, dove, quali sono state le cose sbagliate, quali le cose giuste. Anche Simone dice ha inanellato una lunga serie di errori. Tu, se dovessi dire, fare un bilancio molto sintetico di cose fatte bene e fatte male. Ma il messaggio del primo ascoltatore mi sembrava molto corretto. Cioè, in realtà il Partito Democratico, a partire da Bersani, non ha mai fatto una riflessione sulla sconfitta, perché di questo si tratta, dell'aprile, delle ultime politiche. Sconfitta che, come ricordiamo, poi ha portato a uno scontro fortissimo, anche una spaccatura dei democratici sulle elezioni del Presidente della Repubblica. Ricordiamo i famosi 101 di Prodi. Cioè il PD da quell'esperienza è uscito a pezzi, e Renzi è stata, come dire, la ciambella di salvataggio a cui si sono attaccati un po' tutti. Questa ciambella di salvataggio ha funzionato fino a un certo punto, come diceva il nostro ascoltatore, cioè quando ha portato il PD ad oltre il 40%. Dopodiché Renzi ha sicuramente peccato del suo principale difetto, ovvero la superbia, l'arroganza, e questo l'ha portato a sbattere, a partire dalla scelta proprio suicida di puntare a un referendum sulle riforme costituzionali come se fosse un referendum sul suo ruolo di premier, sul suo governo, e questo, non c'è dubbio, è stato il maggiore degli errori commessi dall'ex presidente del Consiglio. Adesso cosa succede? Ma mi sembra evidente, insomma, cioè, soprattutto perché tutta questa polemica legata all'interno del PD, ma anche, vorrei dire, del centrodestra, perché è un po' la stessa cosa, è legata anche alla legge elettorale. Parliamoci chiaro: se si andrà a votare con un sistema proporzionale, qual è quello uscito dalla sentenza della Corte Costituzionale? Ma insomma, le possibilità che ci sia una ulteriore frammentazione delle forze politiche è evidente. Cioè, faccio un esempio concreto, no? Cioè, Bersani, con una legge elettorale di tipo proporzionale, qual è quella attuale, si può giocare le sue carte, nel senso che formerà un'altra forza a sinistra del PD e magari raggiunge una certa percentuale. Se invece ci fosse un sistema maggioritario, come quello, per esempio, come era il Mattarellum, ma anche con i collegi, dove alla fine, se tu non ti allei con qualcuno, perdi sempre, sarebbe tutto molto più complicato. Lo stesso vale anche nel centrodestra: alla fine tutti strepitano, però parliamoci chiaro, Berlusconi non vuole stare sotto Salvini, Salvini non vuole stare sotto Berlusconi, e quindi alla fine ognuno si tiene il suo partito e poi, se sono rose, fioriranno. Allora aspettiamo la primavera, dici, per vedere se le rose fioriscono? Ma io credo, allora, nessuno ha, come si dice in questi casi, la palla di vetro, però a me sembra che, al di là dello scontro interno al PD tra quando ci sarà questo congresso e le future elezioni, mi sembra che questa legislatura sia destinata a proseguire fino al 2018. E così probabilmente sarà. Grazie intanto, Barbara Fiammeri, avremo tempo di risentirci fino al 2018. Ciao Barbara, buon lavoro. Intanto vedo tanti altri vostri messaggi. Dice Michele: il PD non so quale strada prenda, ma Renzi prenda la porta per Confindustria, dice. Vabbè, insomma, queste sono le letture degli ascoltatori. Gianluca: la strada di un'identità vera deve prendere un partito laico con presupposti da cui partire, da sempre devono farlo. E poi invece qualcuno dice: Sergio, devono togliersi dal governo, hanno fatto troppi danni. Mentre poi Luca, vediamo, Walter, ecco, molti critici. Qualcuno raccomanda di recarsi a Lourdes, certamente, insomma, diciamo, come diceva Barbara Fiammeri, qui si rischia comunque la frammentazione. Poi c'è anche il campo democratico di in questi giorni di Pisapia, che sta mettendo in campo questo nuovo movimento da affiancare in realtà al PD, perché diceva insieme possiamo superare il 40%. Certo, bisognerà vedere se riesce con questo movimento a riconquistare il consenso di tanti elettori probabilmente perduto, come si diceva prima, come è successo nelle scorse amministrative. Cooper lo stesso lo ricordava, sconfitte come quelle di Roma, di Torino o di Napoli. Insomma, però ci sarà tempo di parlarne. Voi continuate con le vostre interazioni, pagina Facebook di Effetto Notte, poi al 349-238-6666, mentre tra pochissimo parleremo con un famoso fotografo di questo premio prestigioso andato appunto al fotografo che ha scattato la foto dell'assassinio dell'ambasciatore russo in Turchia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano, sempre più bronchitica. Ma adesso, dopo il riassunto della giornata, aver parlato ampiamente del Partito Democratico con la sua direzione oggi e questa spaccatura che continua tra maggioranza renziana e minoranza PD, vedremo appunto quando e come si andrà al voto, ma è passata la mozione del congresso subito, dopodiché si vedrà cosa succederà. Adesso invece cambieremo completamente argomento, però se non avete acceso puntualmente le 21, tra poco vi ricordo quali sono le notizie più importanti. Intanto, sempre sulla direzione del PD e la direzione anche nel senso di quale strada prendere per il Partito Democratico, Cristiano dice dipende tutto da quanta forza, verità, senso e appartenenza abbia ancora il termine sinistra nelle coscienze di chi si confronta. E siccome Renzi e Circenzi, dice la Z evoluta di sinistra, non hanno nemmeno un grumo di luce, è giusto che si crei una spaccatura. Allora, vi ricordo i fatti principali. La direzione del PD, la maggioranza approva l'ordine del giorno, congresso subito, a favore 107, 12 contrari, 5 gli astenuti, passa la linea Renzi, minoranza scontenta. Vertice del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, sull'assessore Berdini si deciderà dopo aver valutato il suo operato, questo è il risultato del vertice. Oggi la sindaca Raggi aveva detto la pazienza ha un limite, lavori l'assessore anziché fare le interviste. Bruxelles sull'Italia, nessun ultimatum ma la crescita è la più lenta d'Europa. Stati Uniti, stato di emergenza in California, la più grande diga americana a rischio collasso. Francia, valanga sui sciatori in Alta Savoia, 4 i morti, ma la prefettura pensa che ci possano essere altre vittime. Siria, lo scempio a Palmira continua, in un video Mosca mostra nuovi danni al patrimonio archeologico dell'antica città. Genova, un sedicenne si uccide davanti alla madre dopo aver ammesso con gli agenti che perquisivano l'abitazione di avere 10 grammi di hashish. Addio a Massimo Fagioli, lo psichiatra guru dell'analisi collettiva, morto 85 anni. Fotografia, è andato al fotografo Buran Osbilici il premio World Press Photo 2017, ne parleremo tra pochissimo. E per il calcio prosegue la partita di Serie A Lazio-Milan, ma con un vantaggio per ora della Lazio su 1-0 sul Milan. Quindi parliamo di questo premio, il World Press Photo, che è il più prestigioso concorso di fotogiornalismo a livello mondiale. L'edizione 2017 di questo premio se l'è aggiudicata Buran Osbilici, penso che si pronunci così, fotografo dell'agenzia Associated Press, per quell'immagine che ha fatto il giro del mondo, che sicuramente avrete visto per la maggior parte di voi, l'immagine dell'omicidio dell'ambasciatore russo in Turchia, Andrei Karlov, lo scorso 19 dicembre. Osbilici, che si trovava all'inaugurazione di una mostra a cui era intervenuto appunto l'ambasciatore, era riuscito, pensate, a realizzare l'intera sequenza dell'assassinio. In particolare lo scatto premiato è quello che ritrae il killer, che era poi un poliziotto, in piedi con la pistola nella mano destra puntata a terra e la sinistra alzata a indicare il cielo, e poi il corpo dell'ambasciatore che era lì a terra davanti a lui. Il presidente della giuria, Stuart Franklin, l'ha definita una foto con un impatto incredibilmente forte, e su questo coinvolgo Roberto Koch, che è fotografo, editore, fondatore dell'agenzia Contrasto, che è la più importante struttura di produzione fotografica italiana, che oltre che organizzatore di eventi culturali intorno alla fotografia a livello internazionale se ne occupa da 30 anni. Lo raggiungeremo tra pochi istanti perché sta viaggiando in treno, vi potete immaginare, insomma, se ci sono gallerie e se la tenuta della linea cellulare non è sempre solida. Vi dicevo, ne parleremo adesso con queste foto che hanno sempre più come soggetti situazioni di violenza, di guerra. Siamo abituati, no, a vedere che i grandi premi del fotogiornalismo, i più prestigiosi a livello internazionale, vengono per lo più assegnate immagini di questo tipo. Vediamo se riusciamo allora a raggiungere Roberto Koch. Il classico, no? Che cosa si fa quando c'è la linea caduta? Si ricontinua a parlare intorno allo stesso tema, che è appunto quello di questa immagine del fotografo che poi ha raccontato che era lì quando è stato appunto ucciso l'ambasciatore, che non sapeva se questo poliziotto terrorista avrebbe ucciso altre persone, avrebbe sparato magari anche verso di lui, ma lui si è detto: che figura potrei fare se me ne andassi senza fare questa foto? Mi chiederebbero poi, per quello che è il mio mestiere, come hai potuto tu, che eri in quel momento lì, non hai scattato una foto così importante. Sentiamo se c'è Roberto Koch, se no passiamo al prossimo ospite. È il caso, sì, di parlare della diga californiana. Direi che lo raggiungiamo dopo, e i treni del resto fanno questi scherzi. Adesso invece vediamo che solidità ha la diga in California. Intanto ci sono già tre contee della California, tre regioni della California che sono state evacuate, circa 200.000 persone, proprio per il fatto che questa è la diga più alta degli Stati Uniti e che se ci fosse un crollo, vi potete immaginare, no? Si è parlato di effetto Vajont in modo inopportuno tempo fa in Italia, dopo le forti scosse di terremoto. Invece in questo caso potrebbe essere effettivamente plausibile. C'è Marco Valsania in collegamento direttamente dagli Stati Uniti, corrispondente del Sole 24 Ore. Caro Marco, buonasera. Caduto un treno in Italia, si passa direttamente agli Stati Uniti e alla diga, caduto nel senso la linea cellulare sulla linea ferroviaria. Marco, questa diga è vero che è la più alta degli Stati Uniti? Perché qui c'erano un po' di discussioni tra chi si intendeva di Stati Uniti, di dighe, diceva no, non è proprio la più alta, intanto è così. Ma viene presentata, non sono diciamo un esperto misuratore di dighe, ma diciamo viene presentata come la più alta, diciamo, dalla maggior parte dei... È quella di Oroville, no? Esatto, quella di Oroville è anche una delle più, così, delle più vecchie, e stata diciamo sicuramente mal, diciamo così, la manutenzione ha lasciato a desiderare, e il risultato è quello che si è visto, cioè delle falle nei meccanismi, nei canali per gestire l'eccesso, diciamo gli eccessivi livelli di acque, e questo ha portato all'evacuazione prudenziale, per evitare che potessero esserci delle vere e proprie mura di acqua che scendessero diciamo a valle e potessero travolgere centri abitati e mettere a rischio la vita di decine di migliaia di persone. L'evacuazione complessiva è stata quasi di 200.000 persone. E leggevo che erano bloccate strade e autostrade proprio perché tutte queste persone si erano messe in moto per andare altrove, no? Esattamente, perché è stato diciamo tutto abbastanza frenetico, l'allarme è arrivata la mattina stessa, e quindi diciamo è stato anche difficile persuadere la gente che non si trattava di un falso allarme, ecco, no? di una prova diciamo di evacuazione, ma di una vera e propria evacuazione, perché non era mai accaduto nella storia della diga che il livello dell'acqua arrivasse a questi livelli. Il problema è stato che dopo un lungo periodo di siccità nelle regioni occidentali degli Stati Uniti, California compresa, c'è stato invece un record di precipitazioni, sia di pioggia che di neve, in questo inizio di primo scorcio dell'anno, tale che praticamente in questi primi mesi e mezzo dell'anno ha raggiunto il livello medio, le precipitazioni hanno raggiunto il livello medio annuale delle precipitazioni in quell'area. Questo ha generato un eccesso di flusso delle acque in questi laghi artificiali, verso questa diga, e i meccanismi appunto di gestione di questo eccesso di acqua non erano mai stati messi alla prova in realtà. Quindi c'erano dei buchi, delle falle, addirittura c'era una falla nel principale canale di di gestione dell'eccesso di acqua, c'era una falla che viene descritta grande quanto un campo da football americano, quindi praticamente non poteva essere riparata d'urgenza, diciamo, questo è il risultato. E anche il secondo canale d'emergenza che pensavano di poter usare, hanno cominciato a usarlo, ma hanno poi scoperto che c'era anche lì un'erosione della struttura, e quindi non può essere usato diciamo in modo sicuro, e da qui l'automatico a quel punto ordine di evacuazione d'emergenza. Senti Marco, hanno dato dei tempi in cui la situazione può ritornare a essere più o meno stabile o per ora è tutto Ma sospeso? Ci sono stati dei segni di miglioramento, perché le precipitazioni sono diminuite fino a mercoledì e non è prevista pioggia, per esempio, in tutta quell'area, e quindi in questo momento c'è un calo progressivo, per quanto lento, dei livelli, diciamo, dei livelli dell'acqua, però l'impressione è che diciamo, prima che possa essere dichiarata così il tutto tranquillo, ecco, possano ancora passare giorni. Credo che vorranno aspettare di vedere l'effetto delle prossime precipitazioni, che potrebbero arrivare appunto verso metà settimana, per capire a quel punto, diciamo, quanto il livello sale, quanto arriva vicino allo straripamento, al pericolo di straripamento. L'importante è che abbiano più o meno la situazione sotto controllo e siano riusciti quantomeno a evacuare prima queste 200.000 persone, no Marco? Sicuramente, e questo, diciamo, ammette anche comunque in evidenza quanto le emergenze ambientali oggi possano creare negli Stati Uniti, anche negli Stati Uniti, delle situazioni estremamente drammatiche, e quanto, diciamo, le infrastrutture spesso non siano all'altezza, non siano state, diciamo così, non abbiano ricevuto l'adeguata manutenzione. Era accaduto a New Orleans con l'uragano Katrina. Era accaduto a New York con Sandy, questo è un ulteriore diciamo così segnale d'allarme che con l'effetto serra, con gli estremi così il clima estremo, diciamo, che a questo punto diventa quasi la norma, ecco, molte delle cose che non accadevano in passato adesso rischiano di succedere. Grazie Marco Valsani da New York. Ciao Marco. Grazie a voi. I vostri messaggi prima di aggiornare chi sta viaggiando. Dice un altro ascoltatore: il PD con Renzi, che ha approvato a colpi di voti di fiducia il Jobs Act, ha diviso profondamente il paese e anche il partito. Un vero schifo, dice questo ascoltatore. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Francesco da Udine invece auspica una grossa alleanza. Dice: Renzi abbia il coraggio di fare finalmente una cosa mai fatta finora dal suo partito, salti il fossato e apra una grossa coalizione con Forza Italia. Non vedo altri sbocchi per la politica italiana. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre con voi Roberta Giordano. Vedo una notizia che arriva adesso dall'Austria. La polizia austriaca ha arrestato oggi un sosia di Adolf Hitler dopo che è stato visto aggirarsi nella città di nascita con i tipici baffetti. Lo ha riferito un portavoce della polizia. Si tratta di un 25enne di nazionalità austriaca. È stato posto agli arresti domiciliari nella città di Braunau am Inn, la stessa dalla quale il Führer è nato il 20 aprile 1889. Speriamo che non abbia altre colpe che assomigliargli un po', insomma, però questi baffetti evidentemente erano stati fatti ad arte. Ma le notizie importanti sono sì della direzione PD a Renzi, congresso subito, no di Orlando e della minoranza PD che si dice scontenta, scontro con Bersani ed Emiliano si candida a segretario. L'Unione Europea rivede il PIL dell'Italia al rialzo, non ci saranno ultimatum, dicono, però effettivamente la crescita dell'Italia è la più bassa in Europa. Poi l'ira della sindaca Raggi sull'assessore all'urbanistica Berdini, dice: la mia pazienza ha un limite, il destino dell'assessore è adesso affidato alla valutazione del suo operato nei prossimi giorni. La grande diga fa paura in California, ne abbiamo appena parlato, 200.000 le persone evacuate, l'impianto di Orville rischia il collasso, è stato di emergenza in California. E poi il World Press Photo allo scatto, quindi il premio più prestigioso del fotogiornalismo, allo scatto dell'omicidio dell'ambasciatore russo Karlov in Turchia. Di questo ne parleremo tra poco, appena riusciamo a raggiungere di nuovo questo famoso fotografo. Intanto, spazio europeo. Youzone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati gli ascoltatori di Radio 24, da Silvia Bernardi. Si chiama Regolamento Omnibus e deve traghettare l'agricoltura europea dalla vecchia alla nuova politica agricola comunitaria targata 2020. La riforma a medio termine indica nuovi scenari che presuppongono strumenti più idonei ad affrontare le criticità del settore, le sfide del futuro. In campo ci saranno una regolamentazione più moderna ed efficace che interverrà a modificare sensibilmente i pilastri della PAC 2013 in termini di sviluppo rurale, pagamenti diretti, regolamento orizzontale e OCM. Ne parliamo con l'europarlamentare Giovanni Lavia. Cosa cambia dalla vecchia alla nuova politica agricola? Si tratta sostanzialmente di una revisione intermedia nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020. Dopo il primo periodo di applicazione, avendo visto che alcune misure sono di difficile applicazione, complicano la vita agli agricoltori, non c'è un risultato effettivo dalla misura stessa, si pensa allora di modificarle. Uno di questi è il greening, il cosiddetto rinverdimento dell'agricoltura, perché le misure proposte inizialmente dalla Commissione erano eccessivamente complesse, difficili da applicare, richiedevano tanta burocrazia e avevano effetti limitati. Vediamo di semplificarle. Dall'altro lato, altre misure come quelle relative alla tipologia di imprenditore che può fruire gli aiuti, oppure ancora le iniziative connesse con i giovani, trovano nuovo slancio in questa revisione di medio termine della PAC. Quindi ci saranno attenzioni particolari per i giovani agricoltori? I giovani sono un tema al quale dobbiamo sempre prestare attenzione. Dobbiamo sempre tener conto che due terzi degli agricoltori europei ha più di 65 anni. Quindi in Europa abbiamo bisogno di ringiovanire la forza lavoro agricola, abbiamo bisogno di nuove forze imprenditoriali. Per questo l'Unione Europea ha sempre prestato attenzione ai giovani e continuerà a farlo in misura ancora maggiore nel futuro della politica agricola comune. Rispetto a questa revisione, che cosa meriterebbe ancora maggiore attenzione? Sicuramente le politiche di sviluppo rurale, e di questo ne parleremo in Parlamento. Stanno partendo in tutta Europa con forte ritardo e non sempre l'efficacia delle politiche di sviluppo rurale è in linea con quelle che sono le attese. Abbiamo bisogno di fare più investimenti nello sviluppo rurale, perché abbiamo visto che l'agricoltura, anche in zone svantaggiate, resiste ed è in grado di produrre reddito e occupazione quando c'è una politica che ruota attorno, una politica fatta di strutture, di investimenti, una politica fatta per la terziarizzazione dell'agricoltura, quindi una politica di sviluppo rurale per le aree rurali, e questo dovremmo continuare a implementarlo con risorse comunitarie e con maggiore capacità di attivazione di queste risorse da parte delle autorità nazionali e regionali, che non sempre sono attivissime. Youzone, incontro con gli europarlamentari in collaborazione con Euronet Plus. Oh, dovremmo essere riusciti finalmente a ricollegarci col nostro ospite che dovevamo sentire prima per parlare di questo premio, il World Press Photo, il più prestigioso concorso di fotogiornalismo a livello mondiale. L'edizione 2017 di questo premio se l'è aggiudicata Buran Osbilici, fotografo dell'agenzia Associated Press, per l'immagine, vi dicevo, dell'omicidio dell'ambasciatore russo in Turchia, Andrei Karlov, che è avvenuto lo scorso 19 dicembre, con questa immagine del suo assassino, questo poliziotto che era dietro di lui all'inaugurazione di questa mostra, che ha fatto il giro del mondo, no? Lo scatto premiato in particolare, quello che ritrae appunto il killer, questo poliziotto in piedi con la pistola nella mano destra puntata a terra, la sinistra alzata a indicare il cielo, e davanti a lui per terra il povero ambasciatore russo. Il presidente della giuria del premio, Stuart Franklin, l'ha definita una foto con un impatto incredibilmente forte, e beh, del resto lo abbiamo visto più o meno tutti. Ne voglio parlare appunto con Roberto Koch, fotografo, editore, fondatore dell'agenzia Contrasto, che è la più importante struttura di produzione fotografica italiana, oltre che organizzatore di eventi culturali intorno alla fotografia da almeno 30 anni. Siamo riusciti a stabilire la linea, Roberto Koch? Sì, buonasera. Salve. Mi piace. cose che succedono in diretta con i treni che vanno, del resto. Assolutamente. Quindi quello che ha detto questo il presidente della giuria, tra l'altro, ha parlato di un'immagine esplosiva che parla davvero dell'odio dei nostri tempi. Sì, Stuart Franklin ha anche aggiunto che lui personalmente non era a favore di questa fotografia come fotografia vittoriosa, ma il meccanismo della giuria del World Press Photo è sempre piuttosto complesso. A me mi è capitato di partecipare tre volte alla giuria ed è effettivamente molto molto interessante, perché da un lato la giuria è composta di membri che provengono da diversi paesi, con diverse culture e diverse esperienze, foto editor, fotografi, direttori della fotografia, a volte direttori di giornali, ognuno da un paese diverso. Questa fotografia però si è accesa oggi anche sulla base di queste dichiarazioni di alcuni dei giurati, non ha molto ragione di esistere. Il WordPress Photo è nato ed è, si è sviluppato anche con momenti alternati per celebrare il meglio delle fotografie pubblicate dalla stampa di tutto il mondo. Questa fotografia è andata in prima pagina su tutti i quotidiani il giorno dopo che è stata realizzata, quindi è evidente che si tratta di una fotografia con un impatto giornalistico straordinario. Ovviamente tutto questo è aumentato dal fatto che il fotografo Buram Azblishi stava seguendo un altro evento, era del tutto impreparato e ha dimostrato una capacità di reazione. Lui stesso dice: io mi sono trovato in una situazione in cui non ero in grado di capire cosa sarebbe successo a me, ma ho pensato che pure se io fossi rimasto ferito o addirittura ucciso in quella situazione, perché si è parato anche di fronte all'assassino anche con una certa capacità di reazione immediata, comunque stavo lì per fare il mio mestiere e non potevo evitare di farlo. Ecco, il punto secondo me è proprio questo: se un fotoreporter si trova in una situazione in cui succede un fatto improvviso e inaspettato, la sua capacità e la sua esperienza dovrebbero portarlo, come nel caso di Buram Azblishi, a realizzare poi quelle immagini che in qualche modo è l'unico lì a poter realizzare e poter documentare. Quindi la potenza di questa foto sta sia in quello, in ciò che ha ripreso questo killer dell'ambasciatore, sia nella sua stessa capacità di reazione incredibile in quel momento. Sì, assolutamente, perché oltretutto poi l'immagine è aumentata anche dal fatto che, diciamo, le icone hanno sempre qualcosa di non prevedibile, non consapevole, che le fa diventare tali. La luce ha colto l'attimo luce, anche nella sua drammaticità. Cocche, ci dobbiamo purtroppo lasciare perché il suo treno gli ha fatto un po' i capricci, la lasciamo alla stazione e alla sua destinazione. Grazie intanto a Roberto Cocche. Noi adesso ci riaggiorniamo poi brevemente alle 22:00.